brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Beh, è una buona notizia sapere che riprenderanno l'attività le scuole d'Abruzzo. Non credo che sia il caso di fare battute sul fatto che gli studenti potrebbero non avere piacere, come sempre gli studenti tendono sempre, perlomeno per luogo comune, a gioire quando ci sono le chiusure scolastiche. In momenti così particolari, secondo me, saranno ben contenti gli studenti abruzzesi di poter tornare nelle loro scuole. Però questo mi fa pensare a una riflessione che vorrei fare questa mattina con le persone che mi ascoltano. Vi rendete conto che noi dentro la scuola passiamo gli anni più importanti, la nostra formazione, e soprattutto passiamo un periodo veramente esteso della nostra giornata. Voi immaginate, ci parte le scuole materne, poi ci sono 5 anni di elementari, 3 anni di medie, 5 anni di scuola superiore, sono una quindicina d'anni circa che ogni essere umano civilizzato più o meno passa dentro un edificio scolastico. Alla scuola sono legati un'infinità di ricordi legati a persone, esseri umani, a situazioni, a momenti particolari. Noi cresciamo sui banchi di scuola, noi abbiamo le trasformazioni più importanti della nostra persona sui banchi di scuola. Noi usciamo dalla fanciullezza e lambiamo la zona difficile adolescenza seduti su un banco scolastico. Probabilmente quel banco assomiglia molto di più a un'esperienza condivisa e comune rispetto ai grandi miti generazionali che abbracciano ognuno di noi, rispetto ai ricordi legati alle case che ci hanno ospitato, quelle dei nostri genitori, le case che poi via via ci siamo andati conquistando una volta usciti da scuola. Beh, qual è il nostro atteggiamento, il nostro attaccamento? Come noi abbiamo sempre considerato l'edificio scolastico? Ma io ricordo vagamente che tornandoci in un banco scolastico per motivi di lavoro a distanza di decenni rispetto a quando lo calcavo per necessità anagrafica, avevo il senso di una dimensione che non mi appartenesse più, perché poi i banchi dell'università in qualche maniera, in qualche università, in qualche facoltà assomigliano ai banchi scolastici, ma un'altra cosa, non ci si passano le giornate, e non sono il luogo dove si bivacca, non è il posto dove si tiene la merenda sotto il banco, dove si tengono i libri, dove si lasciano tracce di noi stessi, dove si scorgono le tracce stratificate delle persone che ci hanno preceduto. Beh, l'ambiente scolastico, la scuola, l'edificio scolastico è sottoposto a un'infinità di attenzioni. Leggo oggi sui giornali che 150 scuole romane sono state oggetto di un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco. Ieri, accompagnando a scuola il più piccolo dei miei bambini, c'era un bivacco di genitori fuori della scuola spaventati perché c'erano delle crepe nella scuola. Naturalmente si è estesa la paura che la scuola potesse crollare, che il terremoto contiguo comunque nelle aree abruzzese alla città di Roma possa aver causato un effetto disastroso nella scuola. Poi non è accaduto nulla, grazie a Dio è tutto sotto sicurezza. Però la scuola legata alla sicurezza, alla caducità degli edifici scolastici è comunque uno dei motivi di angoscia dei genitori, perché vedendola poi dal punto di vista del genitore, l'edificio scolastico è il luogo dove noi diamo piena fiducia all'istituzione che prende in carico i nostri figli. Beh, scorro davanti una rassegna stampa che mi ha fatto Fabrizio Intonti e vedo che in effetti al di là degli episodi disastrosi cruenti, con numero di vittime che hanno stretto il cuore a tutta l'Italia, ci sono stati vari episodi in cui l'edificio scolastico, dal punto di vista di chi affidava i figli, rappresentava non un luogo di tranquillità, un luogo di cultura, un luogo di crescita, ma un luogo di paura. San Giacomo degli Schiavoni, vedo il 15 aprile 2009, scuola a rischio, i bambini saltano le lezioni, le mamme scendono in piazza. Naturalmente l'effetto terremoto amplifica e riporta in superficie un'antica paura, quella che la scuola possa crollare con i ragazzi dentro. Poi vedo crolla intonaco in classe, maestra salva i bambini, del 29 gennaio 2009 a Napoli, una scuola di Castellammare, sono caduti di calcinazzi al soffitto. Naturalmente subito si crea l'effetto ricordo dei disastrosi eventi scolastici, la maestra eroica salva i bambini. Poi un altro episodio ancora, Questa volta Milano, scuola modella, ma cade a pezzi, genitori e maestri si ribellano. E poi vedo una presa di posizione ben decisa da parte del ministro Maria Stella Gelmini, qua è del 24 novembre 2008, la sicurezza nelle scuole è un'emergenza nazionale. Parla il ministro Gelmini sul problema della sicurezza nelle scuole italiane e dice che è un problema da tenere in considerazione. Si sta cercando, disse allora a novembre, di ridurre il numero delle scuole anche per questo, per un discorso di sicurezza e razionalizzazione. Quindi messi insieme tutti questi eventi, questi episodi, il ritorno delle scuole o dei ragazzi a scuola oggi in territorio terremotato, ci fa pensare che telefonando al 800 24 00 24 cominciamo a razionalizzare quella che è la nostra paura per la sicurezza dell'edificio scolastico e il nostro ricordo, la nostra nostalgia per quello che è stato il luogo, anzi il non luogo, visto che le scuole si assomigliano tutte. Attraverso le generazioni abbiamo ricordi molto omogenei dell'edificio scolastico che ha ospitato gli anni della nostra formazione. Gli atteggiamenti nei confronti dell'edificio scolastico possiamo identificarli in due esempi. L'esempio naturalmente del buon Garrone, tornando all'immaginario del libro cuore, e quello del perfido Franti. Sentiamo Garrone. Benvenuti a amici del TG Scuola in Forma. Vi stavate chiedendo perché eravamo sotto il tavolo? Stavamo facendo una prova di emergenza in caso di terremoto. 115 è il numero per chiamare i vigili del fuoco. Quando chiami questi numeri, speriamo mai, devi dire nome, cognome, città, via, numero civico e numero di telefono. E a scuola ci sentiamo sicuri? Sì, se sono rispettate le norme di comportamento per la sicurezza. In caso di evacuazione, mantieni la calma. Non preoccuparti dei libri, cartelle e astucci. La tua vita è più importante di tutte le altre cose. Non spingere, non gridare, non correre. Segui i percorsi di fuga. Segui le indicazioni degli addetti alla sicurezza. Non muoverti in senso contrario. Raggiungi il punto di raccolta della tua classe. Amici del TG Scuola in Forma, per ora è tutto. Questo naturalmente è l'altra faccia della luna rispetto a tante realtà che noi ben conosciamo, anche quelle che frequentiamo quotidianamente accompagnando i nostri figli a scuola, ma se non è così chiamateci, fatecelo sapere. Questo è un primo della classe della scuola San Giuseppe di Cassola Vicenza, in un video fatto dalla sua insegnante, pubblicato su YouTube, sonorizzato, con sigla, perfetto, bellissimo. Il bambino che dà le istruzioni di come comportarsi in caso di disastro. E poi c'è il pessimo esempio dei tanti Franti che anche loro hanno bisogno del loro momento epico, della loro fetta di gloria, e quindi videofonino alla mano si danno da fare in scrupolose, attente e professionali opere di demolizione personale degli edifici scolastici. Ecco la nuova generazione di demolifoni portatili. Guarda. Venuto giù nulla. Un gruppo di ragazzi di una scuola italiana che non tendo a specificare per non incorrere in chiamate di correità, si danno da fare in maniera plateale, scientifica e anche abbastanza curata dal punto di vista della coreografia a una demolizione di gruppo di parte della loro scuola. È un fatto abbastanza noto, devo dire che ogni volta che se ne parla, ogni volta che se ne fa un esempio, diventa materia di riflessione giornalistica. Per modo di dire, naturalmente, questo aumenta il senso di episodio epico, di atto glorioso, e quindi poi ci si meraviglia quando si vedono queste demolizioni quasi come se fossero termiti da parte di ragazzini che sono capaci di demolire nel corso di una notte un intero ala di edificio scolastico, buttando giù i pannelli, i tramezzi, distruggendo i lavagni, i banchi, facendo un'opera di distruzione. Ecco, per farvi riflettere su questo duplice atteggiamento, che probabilmente nasce dal fatto che non si considera l'edificio scolastico come qualcosa che appartenga anche a noi, è il luogo, nella vulgata più deleterre ma anche comprensibile, di un ragazzo sta sul banco di scuola, del proprio quotidiano martirio in cui si è costretti a studiare, costretti a stare lontani dalle cose che ci renderebbero lieto, e quindi c'è una sorta di rivalsa verso l'edificio. Le scuole si stratificano da una parte per l'obsolescenza degli edifici, per i problemi che lo stesso ministro Gelmini sottolineava qualche mese fa, e un po' anche per il fatto che probabilmente nessuno, noi comprese, che siamo stati anche noi ragazzi, le considera come qualcosa che appartiene a noi, che appartiene alla comunità. Ma proprio per darvi un esempio che dovrebbe far riflettere ancora di più in attesa delle vostre telefonate, mi collego con Franco Giancarlo. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, Franco Giancarlo, Franco è il nome, Giancarlo è il cognome, è un vigile del fuoco e attualmente è impegnato nelle ispezioni degli edifici scolastici in Abruzzo. Buongiorno. Assolutamente non sono interessato nelle verifiche. Mi sono trovato lì, io sono il segretario nazionale della Federazione Nazionale della Coppia dei Vigili del Fuoco. Sì. Quindi io mi trovo in aspettativa, mi interesso dei problemi della sicurezza. Però in questo momento sono stato anche ieri all'Aquila come gli altri giorni, però non è che sono uno tra i... Diciamo, lei non ha un incarico ufficiale di fare questo tipo di verifica. Esattamente, però... io faccio attività sindacale a tempo pieno nei Vigili del Fuoco, che tra l'altro è la mia categoria, però mi interesso di tutti i problemi che chiaramente sono legati alla sicurezza. Ecco, in particolare questa mattina mi piaceva parlare e riflettere sulla sicurezza degli edifici scolastici. Innanzitutto, visto che approfittiamo della sua esperienza sul campo, da quello che lei a caldo le è capitato di vedere, di osservare e di capire, qual è la situazione degli edifici scolastici, quelli rimasti in piedi, e se segue anche quello che un po' era il destino degli edifici pubblici su cui tanto si sta discutendo questi giorni, inadeguati alla caratteristica del territorio. Guardi, io le dico questo qui, oggi si stanno facendo tra le 600 e le 1000 sopralluoghi al giorno da parte di tecnici, appunto, che vanno a fare verifiche di staticità negli edifici pubblici, e sono misti, sono composti da personale del comune, dell'università, e sempre presenti i vigili del fuoco, i tecnici dei vigili del fuoco, e si va a verificare appunto le condizioni degli edifici pubblici. Ecco, noi abbiamo sentito all'inizio questa trasmissione, non so se lei era già stato collegato, un ragazzino di una scuola che fa una sorta di video promozionale e spiega quello che è una procedura in caso di necessità per evacuare la scuola, per mettersi in sicurezza o per rispondere ad alcune improvvise situazioni. Io penso che lei potrà aiutarci dopo l'interruzione per dare appunto la linea alle notizie della borsa a riportare alla mente, se possibile, queste norme di sicurezza, queste norme di comportamento. Certo, come intuivo, parlare di sicurezza degli edifici scolastici, parlare dei luoghi che ospitano i frutti delle nostre più profonde e insanabili ansie, avrebbe scatenato un insieme di reazioni, di cui vi porto qualche traccia, perlomeno di quelle che leggo sul profilo Facebook. Daniela mi dice: mi fai ridere, nella nostra scuola ci piove dentro. Un'altra signora, Serena, dice: la mia storia abbastanza recente, un'esperienza scolastica recente, mi sono ricordata di un tratto che accomunava tutte le strutture dove sono stata, il secchio pieno d'acqua nel bel mezzo della palestra, che chiaramente piove dal soffitto. Daniela, ho fatto le superiori anni fa in una scuola che aveva un'unica scala per scappare. Se fosse successo qualcosa, il deposito gasolio era accanto alla segreteria, scioperammo e occupammo per la sicurezza, non ottenemmo nulla. Dopo pochi anni ci fu un incendio, per pura fortuna non ci fu nessuna vittima. Poi un'altra ragazza, signora Chiara, immagino tutte mamme o forse insegnanti: nella mia scuola non ci sono uscite d'emergenza, in caso di emergenza finiremmo travolti l'uno o l'altro rotolando per due piani lungo una scala strettissima. Giovanna Maria, sicurezza negli ambienti scolastici una barzelletta. Manuel: i primi due anni del superiore l'ho fatto in una scuola dove la palestra era una vecchia piccola chiesa sconsacrata. Il ragazzo con un pugno aveva perforato un muro divisorio. Piera, vivo nel Lazio, al confine con la provincia dell'Aquila. Giusto ieri ho accompagnato mia figlia all'asilo, edificio vecchissimo. La suora ci tiene a sottolineare che i muri sono molto grossi e resistenti, ma invece rassicurarmi mi ha innervosito. E andando avanti, visto che è un argomento di grande sensibilità, sentiamo subito un ascoltatore, Andrea. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Io chiamo dalla provincia di Roma, volevo fare una piccola provocazione. Lei chiama, scusi, a che titolo? Genitore, insegnante, osservatore? Io sono genitore della bimba di 3 anni e mezzo. Benissimo, quindi una scuola amatoriale. È una scuola storica di Tivoli che comunque ha i suoi problemi, ma insomma attualmente non sembra avere problemi di questo tipo. La cosa che mi meraviglia è che si parla effettivamente di grossi problemi a livello di usi scolastici, di fatiscenza delle strutture, e non si è mai pensato ad utilizzare la stessa scuola per controllare la scuola. Mi spiego: se si utilizzassero tutte le università, tutti gli istituti di geometri presenti in Italia per far fare, invece che delle perizie finte su strade per fare tesine o cose di questo tipo, delle perizie vere sulle scuole che sono presenti nelle loro città, o nello specifico anche fare delle gite istruttive nei luoghi del terremoto, sarebbe innanzitutto molto formativo per gli studenti stessi, perché vedrebbero. Io penso che adesso come adesso forse non è proprio il momento di fare gite istruttive nei luoghi del terremoto, aspettiamo. No. Cioè, lei dice per far vedere cosa succede. Beh, lì è un caso limite, è un caso particolare. Noi stiamo parlando adesso di una situazione che rientra, anche se è duro dirlo, in una sorta di normalità, e molte volte l'attenzione dei genitori è molto spinta, esasperata nel periodo di frequentazione dell'istituto scolastico. Poi quando finisce nostro figlio di frequentare quella scuola, per noi termina il problema rispetto a quella scuola. Forse è anche per questo che molte volte c'è lentezza negli interventi, o il problema non è così centrale. Assolutamente sì, però per una questione anche di costi, se una città come Roma gli istituti tecnici, per esempio, mandassero i propri studenti nelle altre scuole a fare delle perizie reali, che non costerebbero nulla alla collettività, ma permetterebbero ai ragazzi veramente di verificare strutture dove stanno altri ragazzi o bambini o asili, permetterebbero di fare un'attività di ricerca che a costo zero, che ci ritroveremmo comunque. Era quello la mia provocazione. Ecco, sentiamo, cioè, su questo argomento questa mattina ho pochi interlocutori tecnici a disposizione, avevamo avvertito il ministero competente, avremmo trattato questo argomento, ma capiamo che in questi giorni ci sono urgenze di altro tipo. Però sentiamo il nostro vigile del fuoco, Franco Giancarlo, che è in ascolto, che un'esperienza tecnica in materia ce l'ha sicuramente. Rispetto alla proposta del nostro ascoltatore di far diventare quasi materia didattica la sicurezza scolastica, lei cosa ha da dire? Guardi, noi come Federazione Nazionale CONSAL Vigili del Fuoco sono anni che rivendichiamo appunto che uno spazio dei studi venga proprio dedicato alla prevenzione dei rischi e alla formazione dei studenti. Però prima di fare questo bisognerebbe fare in modo e maniera di dare la certificazione d'idoneità a tutte le scuole d'Italia, dove all'interno ci sono 11 milioni di ragazzi di ogni ordine e grado di età e di scuola a cui partecipano, perché purtroppo i rapporti parlano chiaro: l'agibilità statica non ce l'hanno tutti, l'agibilità igienico-sanitaria non ce l'hanno tutti, la certificazione di prevenzione incendi non ce l'hanno tutti, è stata sempre prorogata da quella famosa 626 di anno in anno, come voi sapete, per mancanza di fondi. Poi ogni volta che accade qualche dramma, Rivoli o altre, si parla di questi aspetti. Ecco, ma qual è il problema in Italia? Mi scusi, per capire meglio, senza entrare poi nei tecnicismi sui quali... abbiamo degli edifici scolastici che ormai sono edifici storici, soprattutto nelle città. Molte volte sediamo sugli stessi banchi sui quali sono seduti i nostri genitori, o accade ai nostri figli di entrare nelle stesse scuole che erano le nostre. Da un certo punto in poi c'è stata una maggiore attenzione, un'evoluzione nel valutare dei criteri di sicurezza, e non c'è stato questo adeguamento di edifici anche abbastanza vetusti a certo, questo adeguamento, problema, a queste norme. Esatto, il problema, come lei sottolinea, chiaramente è legato alle risorse, perché per mettere in idoneità tutte le scuole e quindi evitando le proroghe che sono state fatte di anno in anno, cioè sarebbe bisogno che nelle finanziarie si adottassero quelle misure di finanziamento per permettere attraverso gli osservatori, di andare a fare un'anagrafe di edifici scolastici, intervenire, metterle a norma e poi, una volta che c'è l'idoneità, attuare quella formazione, quell'informazione che è importantissima e che dà la possibilità. Ecco, quando lei dice mettere a norma, se dovesse fare un elenco di priorità, quali sono le circostanze secondo lei più rischiose, mediamente nelle scuole italiane, senza entrare nello specifico, perché sennò sarebbe un discorso molto dettagliato? Impianti, diciamo, di sicurezza nell'evacuazione, impianti elettrici, impianti. Per capire quando considera mettere a norma, cosa significa. Guardi, ma allora, noi intanto possiamo dire che all'interno delle scuole ci sono spesso delle aule che sono riscaldate con delle stufe elettriche. I termosifoni a volte sono traballanti e le porte non ci sono le porte di sicurezza. Abbiamo verificato che ci sono infiltrazioni d'acqua, alcuni tubi e fili sono stati a rischio, e addirittura gli impianti elettrici a volte risalgono magari a 50 anni fa. Tutti questi aspetti qui che dovrebbero essere in qualche maniera superati, i pavimenti sconnessi, le finestre rotte, i banchi che non vanno bene, armadi e librerie che non sono ancorati alle pareti, perché dove abbiamo magari delle scuole in zone sismiche magari questo potrebbe causare un incidente, e noi sappiamo bene che quella mattina di Rivoli c'era la rigressione quando è venuto giù quel solaio da sopra, sì. E se no ci sarebbero state le situazioni più grosse. Stessa cosa è accaduta all'Aquila, perché all'Aquila nella scuola noi ricordiamo che è successo alle 3:30 della domenica, che poi è divenuta lunedì mattina, sì. Perché se fosse successo di martedì, diciamo che nella sfortuna c'è stata la fortuna che tanti ragazzi diciamo non erano presenti, quindi ancora non erano arrivati, sennò magari il danno sarebbe stato ancora maggiore. Ecco, volevo sentire un attimo, solo un secondo, che mi chiama da Venezia Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Così allargo un pochino anche la rosa dell'osservazione. Lei ha fatto l'università a Venezia. Sì. No, io chiamo da Padova, ho studiato a Venezia. Due considerazioni: anch'io ho studiato in edifici quali Cabembo e Santa Marta, altri edifici dove le misure di sicurezza sicuramente non c'erano, perché sono edifici di chissà quante centinaia, illuminati da una sorta di fascino storico, però andando a stringere, sì, sicuramente. Però io devo dire una cosa, cioè bisogna anche pensare che comunque anche gli studenti hanno una responsabilità, cioè anche noi quando andavamo al corso sapevamo queste cose, non è che avevamo bisogno di chissà quali corsi di formazione professionale da fare ai lavoratori, perché ci venisse detto che eravamo in edifici che se succedeva qualcosa eravamo a rischio. Cioè si sa, sono anche le persone devono anche essere coscienti delle cose, sarebbe come uno va via per la strada e non sa che può fare un incidente, è logico che può fare un incidente. Questo non vuol dire assolutamente deresponsabilizzare i ministeri sugli edifici, però l'Italia non è il Canada, non è gli Stati Uniti d'America dove tutto si cambia dalla mattina alla sera. Soprattutto diciamo che in città con forti vincoli di tipo storico architettonico, immagino Venezia che è già una città in sé particolarmente problematica, l'adeguamento non è così facile. Ci si rispettava, ognuno osservava i propri spazi, ci si lamentava per carità, però sempre nei limiti della moderazione. E invece mi pare come di sentire che specialmente tanti genitori che evidentemente hanno tanto tempo da perdere si lamentano di tutto, cioè anche di scuole nuovissime, di tutti i soldi che vengono spesi, anche troppi, e vogliono sempre di più e tutto. E invece uno Stato come quello dell'Italia costa tantissimi soldi ogni singola cosa, dal marciapiede alla tomba alla scuola, e non si può pretendere tutto, se no uno se lo paga, va dove vuole e si arrangia. Questa era la prima cosa, e la seconda un invito, spero di poterlo fare in questa trasmissione, però a selezionare molto bene le imprese di costruzioni edili che andranno a fare i lavori in Abruzzo, perché mia esperienza personale, secondo me, di imprese di costruzioni in Italia, o presunti tali, ovvero iscritte alla Camera di Commercio con il codice di lavori generali nell'edilizia, ce ne sono troppe. per vari motivi, e soprattutto non viene mai non manca in Italia il requisito per l'accesso alla professione del costruttore edile, ovvero lei domani mattina, dottore, può aprire un'impresa edile alla Camera di Commercio senza nessun requisito, nessuno le chiede niente, lei apre una bella ditta individuale, la chiama come vuole e lei diventa un impresario edile. Solo per curiosità, Giovanni, qual è la sua professione? Lei è il costruttore edile. In questa materia, quindi lei tiracca un po' il suo mulino, giustamente. Esattamente, perché... Perché lei è regola, quindi giustamente difende la sua categoria. Ma sì, perché io vedo tutti i giorni, adesso sto passando davanti a un cantiere dove stanno montando una gru, non è mia, non è il mio cantiere, che avrà come minimo 40 anni ed è da vergognarsi di vedere queste cose. Però fino a quando... Lei ci sta attento invece a queste cose? Noi cerchiamo di stare attenti, certo che cerchiamo, perché comunque gli occhi cerchiamo di averli puntati su tutto, su tutti i settori. Però è chiaro che se poi uno vede che chiunque può accedere a questa professione, mentre se io domani mattina volessi fare l'avvocato dovrei laurearmi... Perché lei ha studiato per fare questo lavoro, questo... Io ho studiato, sì, ho studiato, però non lo ritengo un requisito, diciamo così, che tutti debbano avere, però almeno un diploma una persona lo deve avere, non pretendo la laurea, ma almeno un diploma, mentre al giorno d'oggi, specialmente nell'edilizia, anche gente con la quinta elementare dice di essere costruttore, poi magari hanno anche molta manualità, molta capacità, hanno lavorato in altre ditte, però loro uno, come in paesi più evoluti dei nostri, Germania o Svizzera, deve avere anche dei requisiti professionali, cioè ad un terzo a cui vanno a costruire la casa, l'ospedale, la chiesa, devono dire sì, guarda, io so leggere un disegno, so fare dei conti, so fare le mie considerazioni. Anche perché oggi quegli adeguamenti di cui lei parlava, le norme di sicurezza, richiedono un aggiornamento costante rispetto a quelle che sono via via appunto le osservazioni che vengono fatte, non ci si può più basare soltanto su una propria esperienza personale, ma visto che cambiano i materiali, cambiano le norme di sicurezza, cambiano le necessità, bisogna senz'altro essere informati. Grazie Giovanni, ci sentiamo tra un istante. 800 24 00 24, affidereste tranquillamente vostro figlio alla vostra scuola o avete qualcosa da dire? Questo è il momento. 800 24 00 24, noi siamo partiti questa mattina riflettendo sulla notizia della riapertura comunque dell'attività scolastica in Abruzzo, che ci fa piacere, e abbiamo cominciato a ragionare su quello che è il rapporto fra il cittadino, sia nella sua veste di studente, di allievo, sia nella veste poi di genitore, rispetto all'edificio scolastico. Abbiamo visto, da una parte c'è spesso un grande senso di apprensione, c'è sempre una grande attenzione, a volte è meticolosa, a volte maniacale, a volte anche esagerata, a volte superficiale, rispetto allo stato di tenuta, allo stato di conservazione dell'edificio scolastico. D'altresì è anche vero, molte volte esiste una profonda trascuratezza da parte anche di coloro che lo frequentano, e gli episodi di cronaca di cui abbiamo fatto altre volte cenno dimostrano che in fondo non c'è poi nemmeno così spiccato il senso di cosa pubblica, di possesso di un bene comune quando si parla di scuola. Sarà forse un po' perché la scuola è un ambiente transeunte in cui si passa, in cui in fondo non si lasciano le radici, anche se poi nell'edificio scolastico noi passiamo una parte preponderante della nostra vita. Paola, buongiorno. Paola è una mamma e un insegnante con figli a scuola. Io ho tre figli e guardi, in questi giorni, dopo il terremoto, ma anche dopo l'avvenimento di Rivoli o il crollo dell'asilo, adesso non ricordo se era Basilicata o Campania, naturalmente ho pensato ai miei ragazzi a scuola. La preoccupazione è grandissima perché come genitore non c'è tutta questa sicurezza. Io non sono sicura che mandando mio figlio a scuola mi tornerà intero in caso di scossa di terremoto. Ancona è una città... Sì, siete anche voi in una zona abbastanza esatto. Rischiosa. Esatto, in questi giorni abbiamo sentito delle forti scosse e naturalmente io come madre non sono tranquilla, anche se i miei ragazzi frequentano scuole dove i corsi sulla sicurezza vengono fatti tutti gli anni. Proprio questa mattina al liceo classico ci sono 2 ore di assemblea, i ragazzi faranno poi delle prove di evacuazione proprio per essere pronti, quindi io non condivido ad esempio il discorso fatto dal signor Giovanni di Venezia, assolutamente non lo condivido, perché lui prima ha detto detto, i genitori si lamentano sempre. I genitori vorrebbero cose che non sempre possono essere date, se le vogliono, se le paghino. Questo discorso è per diciamo che molto... le sensibilità cambiano a seconda delle latitudini. Esatto, io immagino che esatto. Le scuole padovane saranno probabilmente degli esempi di perfezione, quindi esatto, le scuole marchigiane magari un po' meno, ma il concetto non è tanto questo. Il concetto è che se io come genitore mando un figlio in una scuola pubblica, ritengo che la scuola mi debba garantire quelle norme minime sulla sicurezza, per cui il ragazzo entra a scuola intero e mi ritorna a casa intero. A scuola di mia figlia quest'anno è caduto un controsoffitto in aula mentre facevano lezione in una classe delle elementari, e la fortuna ha semplicemente voluto che in quell'angolo dell'aula non ci fossero dei banchi, pur essendo la nostra una scuola sottoposta continuamente a controlli. Ecco, lei signora però considera che queste attività alacridi, improvvisa sensibilizzazione, corsi di evacuazione, debbano essere un'attività costante per tutto l'anno, per tutti gli anni, anche gli anni in cui splende il sole? La mia esperienza è sicuramente quella di una perché sotto costanza. Terremoto, no mi scusi, è chiaro che sotto terremoto tutti pensiamo a questo. Io le posso dire come mamma, nelle scuole frequentate dai miei ragazzi, ogni anno ci sono le prove di evacuazione da anni, tutti gli anni. I vigili del fuoco nella nostra città sono impegnati in prima persona. I ragazzi vengono continuamente aggiornati, quindi da quel punto di vista devo dire che c'è un grande rispetto delle norme e le scuole si attivano sempre. Per quello che lei sappia come insegnante, fa parte comunque delle regole di tutte le scuole d'Italia avere un piano di evacuazione, penso, come sia negli uffici. È obbligatorio, è assolutamente obbligatorio. Ogni scuola ha necessità di avere un responsabile per la sicurezza. Sì, come accade ormai in tutti gli uffici, anche qui alla radio, ogni tanto ce ne andiamo di corsa giù per le scale. Perché anche fa parte. Da noi, in ogni scuola abbiamo un responsabile della sicurezza interno e in più vengono individuati anche dei periti esterni che naturalmente si coordinano con questo responsabile in quelle parti tecniche in cui il responsabile non può essere un addetto ai lavori, quindi magari a volte ingegneri affiancano i docenti o il personale di amministrazione che ha il compito di responsabile della sicurezza. Quindi diciamo che una sorta di protocollo nazionale su questo tipo di attività di emergenza esiste. Esiste, assolutamente, guardi, esiste. Il problema è più che altro di strutture degli edifici. Il vero problema è l'intervento degli enti locali sugli edifici di loro competenza. I comuni per quanto riguarda le scuole elementari e le province per le scuole superiori. I comuni non sempre hanno i fondi per intervenire. E le province è lo stesso. Il vero problema è l'edilizia scolastica in sé, non tanto le norme di sicurezza quanto la preparazione dei docenti e dei ragazzi ad evacuare la scuola, quanto la tenuta dello stabile. Ecco, resta un attimo in linea perché il vigile del fuoco, Franco Giancarlo, che abbiamo ancora al telefono, mi sembra che abbia dei dati che vuole comunicarci. Sì, no, io volevo soltanto rappresentare che al di là dell'intervento che mi ha preceduto, che sicuramente rappresenterà una scuola modello, dove magari vengono attuate queste norme di sicurezza, purtroppo in Italia non è così. Ricordi che i dati INAIL proprio sugli incidenti occorsi nel 2007 rappresentano 12.912 incidenti occorsi a personale scolastico e 90.478 ai studenti. Questo per rappresentare che in tantissime scuole non ci sono le porte di sicurezza, non vengono fatte se non sulla carta magari quelle responsabilità di coloro che sono deputati alla sicurezza, non vengono fatti dei corsi, non ci sono magari le segnaletiche che dovrebbero poi aiutare le persone nel momento che si verificano rischi o incidenti e che possono essere terremoti, alluvioni, crolli o quant'altro. E quindi, sì, anche il quotidiano, quindi... perché esistono grandi parti del nostro paese, grazie a Dio, che non sono sottoposte a rischi naturali così evidenti, ma ahimè un edificio fatiscente con gli impianti non a norma o con le finestre non in sicurezza e via dicendo, comunque rappresenta senz'altro un rischio. Volevo sentire un attimo Alberto, che è genitore e anche geometra, quindi probabilmente ha qualche elemento tecnico da aggiungere a quello che stiamo dicendo. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì, io sono... E volevo portare il mio piccolo contributo. Io ho avuto a che fare con i plessi scolastici del nostro comune, non direttamente perché come consigliere comunale, come componente della commissione edilizia, ho avuto un rapporto marginale, però ho visto riparazioni fatte, modifiche fatte negli anni, tutte quante in maniera pittoresca dal mio punto di vista. Mi spiego meglio, sono stati fatti dei lavori, per esempio l'edificio degli anni 70 circa, perdeva acqua, come diceva una signora prima, metteva il secchio dell'acqua, il secchio per terra per raccogliere l'acqua. Questi interventi a riparazione sono stati fatti 3, 4, 5 volte in 20 anni e non hanno mai portato la soluzione al problema. Questo dal mio punto di vista è un approccio dilettantistico del lavoro. Come diceva Secondo lei, proprio da tecnico, visto che sì, fa il geometra, se ne intende, questa è una caratteristica specifica, peculiare degli ambienti scolastici? O un po', noi oggi osserviamo la scuola perché emotivamente siamo vicini ai problemi della scuola, c'è stato il terremoto, l'Abruzzo, abbiamo figli a scuola, ogni giorno abbiamo patemi d'animo infiniti per la sicurezza dei nostri cari ragazzi, ma non riverbera un po' una situazione generale rispetto agli uffici, agli edifici che noi abitiamo, su quali lavoriamo, la sicurezza degli ambienti lavoro e via dicendo? O la scuola ha un suo specifico particolare? No, beh, credo che valga per tutto, però la scuola ha uno specifico particolare perché soprattutto tocca direttamente il cuore, l'animo delle persone per via dei bambini. Fa molta più impressione un danno in una scuola che un danno in un ufficio, quando magari gli edifici sono perfettamente identici. Va bene, questo mi sembra chiaro, ma mi sembra anche che apra un'interessante prospettiva di approfondimento per un'altra puntata, appunto, di Melog 2.0, in cui cercheremo dei referenti tecnici con competenze molto specifiche rispetto a questa trasmissione. Questa mattina era più sull'onda dell'emotività e del bisogno di perlomeno trasferire e certificare uno stato d'animo diffuso nei confronti della sicurezza degli edifici scolastici. Quindi ci risentiremo senz'altro su questo argomento e ci sentiamo domani con Melog. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.